Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E quindi vedete che nonostante il caldo il governo tiene, perché la tenuta è significativa. Tiene, dice Gentiloni, così con questa battuta oggi al congresso nazionale della CISL, tiene il governo, anche se, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, diciamo che si rischia il tracollo con questo flusso di migranti inarrestabili, in particolare dalla Libia. Pensate che nelle ultime 48 ore sono sbarcate 12.000 persone tra donne, uomini e bambini, tanto che insomma un po' tutti ormai, Mattarella, Gentiloni, stanno dicendo che la situazione ormai è insostenibile. C'è stata anche un'azione formale oggi con il commissario per i migranti italiano, rappresentante e ambasciatore all'Unione Europea dell'Italia, che ha incontrato il commissario europeo per le migrazioni, al quale ha detto insomma qui ci vuole per forza un aiuto da parte dell'Unione Europea. Anche Gentiloni ha detto non può l'Unione Europea continuare a voltare la faccia dall'altra parte, e c'è un'ipotesi dell'Italia, del governo italiano, di bloccare le navi che arrivano dalla Libia con i profughi che non battano bandiera italiana. Ne parleremo di questo argomento, cercheremo di capire anche, diciamo, da un punto di vista di diritto internazionale se è praticabile o meno. Poi torneremo sull'attacco informatico per capire per l'Italia quali possibili conseguenze ci potrebbero essere l'attacco globale di ieri. Parleremo anche di vaccini, perché ci sono stati due casi di bambini, una bambina è morta ammalandosi di morbillo, era già diciamo ammalata di una patologia piuttosto grave. Molti gli argomenti, comunque anche questa sera abbiamo anticipati solo alcuni. Voi potete scrivere i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349 238 6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS, 349 238 6666. Prima di approfondire alcuni di questi temi, riassunto della giornata. L'emergenza immigrazione: nelle ultime 48 ore sono 12.000 gli sbarchi sulle coste italiane. Mattarella parla di situazione insostenibile, il governo valuta un possibile blocco delle navi non italiane. Economia: la Confindustria rialza le stime del PIL nel 2017 più 1,3%. Legge elettorale: la riforma in aula alla Camera a settembre, intanto bagarre polemiche nel centrodestra e nel centrosinistra. Vaccini, torna dopo 30 anni il tetano, l'ha contratto un bambino che si è ferito giocando in Sardegna, e a Roma una bimba di 9 anni affetta da una grave patologia è morta dopo essersi ammalata di morbillo. La strage delle donne per mano maschile: vicino Cosenza un agente penitenziario ha ucciso la moglie con una pistola e poi si è suicidato. L'attacco informatico globale di ieri: il ministro degli esteri ucraino all'ANSA dice c'è la Russia dietro a questo attacco, cercheranno di manipolare il voto anche in Italia. A Effetto Notte sentiremo un esperto di sicurezza informatica. Mediaset con Confalonieri annuncia una nuova causa contro Vivendi, e in Rai oggi presentati i palinsesti. Il delitto di Garlasco: la Cassazione conferma la condanna a 16 anni per Alberto Stasi. Furbetti del cartellino: in 50 indagati al comune di Piacenza, timbravano e poi andavano in palestra a far la spesa. Longevità: impossibile prevedere la durata massima della vita umana, il limite può essere oltre i 115 anni, gli esperti sono divisi. Partiamo quindi dall'emergenza immigrazione. Nelle ultime 48 ore, come vi dicevo, 12.000 migranti sono sbarcati da 22 navi. Il governo italiano sta valutando la possibilità di negare l'approdo nei porti italiani alle navi che effettuano salvataggi dei migranti davanti alla Libia, ma che battono bandiera diversa da quella italiana. Per l'Italia ormai la situazione è insostenibile, lo dice Gentiloni. I paesi dell'Unione Europea smettano di voltare la faccia dall'altra parte. Mattarella dice se va avanti così la situazione sarà ingestibile anche per un paese grande e aperto come l'Italia. E poi l'ambasciatore presso l'Unione Europea Massari ha incontrato il commissario per le migrazioni Avramopoulos, spiegando che la situazione in Italia è grave. Avramopoulos ha detto l'Italia ha ragione nel dire che la situazione sulla rotta del Mediterraneo centrale è insostenibile. E su questa emergenza c'è l'ipotesi, e sull'ipotesi del governo che vi dicevo appunto di bloccare le navi che non battono bandiera italiana, torneremo tra poco anche con un esperto di diritto internazionale proprio per capire quanto sia praticabile eventualmente questa ipotesi. Nel frattempo parliamo di economia con Confindustria, che vede la ripresa ma sottolinea che sono ancora troppi i senza lavoro. Stime del PIL in forte rialzo per il 2017 con un più 1,3% rispetto al precedente 0,8%. Secondo le nuove previsioni del Centro Studi di Viale dell'Astronomia va meglio anche il PIL del 2018 con un più 1,1%. La correzione rispetto ai dati di dicembre è in buona parte dovuta all'innalzamento delle statistiche dell'Istat e più in generale, sottolinea il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, l'accelerazione è stata trainata anche da export e investimenti. Si vede l'inizio di una ripresa, il piano Industria 4.0 è intervenuto sui cosiddetti fattori e non settori, si riattivano investimenti privati nel paese, diventano maggiore competitività per le imprese, più export nel paese, siamo a più 7% rispetto al bimestre dell'anno scorso. Dal rapporto emerge anche la previsione di una frenata sul fronte del lavoro con l'occupazione che rallenterà allo 0,9 nel corso di quest'anno e allo 0,8 nel 2018 per un numero complessivo di inoccupati totali o parziali di 7.700.000 unità ed un ritorno al di sopra dei livelli pre-crisi solo alla fine del biennio. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo al Congresso Nazionale della CISL dopo aver parlato della riforma del mercato di lavoro già fatta, ha detto: sono consapevole che dobbiamo insistere mettendo i giovani anche al centro dei possibili interventi di riduzione del carico fiscale sul lavoro. È un impegno, ha detto Gentiloni, per i prossimi mesi che mi sento di prendere qui di fronte a voi. E sul lavoro oggi è intervenuto anche il Papa con queste parole. È una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga una intera generazione di giovani a non lavorare. E allora è urgente un nuovo patto sociale che riduca le ore di lavoro di chi è nell'ultima stagione lavorativa per creare lavoro per i giovani. Rallenta la crescita dei prezzi nel mese di giugno. Secondo i dati preliminari dell'Istat, il tasso di inflazione frena all'1,2%, toccando il livello più basso a partire da gennaio. Ma l'effetto estate si fa sentire sui trasporti e novità ci sono per luce e gas. Dal 1 luglio la luce costerà il 2,8% in più e il gas 2,9% in meno. Lo ha deciso l'autorità per l'energia. Siamo alla politica. La Camera esaminerà la riforma della legge elettorale nel mese di settembre. Intanto fioccano le polemiche a destra e a sinistra negli schieramenti politici, di cui parleremo più tardi qui a Fettonotte, anzi tra poco. Torniamo appunto nelle tensioni tra centrodestra e centrosinistra. Estero adesso invece con altro tipo di tensioni, quelle tra Russia e Ucraina dopo l'attacco informatico di ieri. I primi risultati suggeriscono che si tratti di un nuovo ransomware che non è mai stato visto prima. Lo abbiamo chiamato Ex-Piotr. Lo spiegano gli esperti di Kaspersky Lab, la multinazionale informatica russa che studia la nuova ondata di attacchi che ha colpito organizzazioni di tutto il mondo. Secondo la società sono circa 2.000 gli utenti attaccati. Le organizzazioni in Russia e Ucraina sono le più colpite, ma sono stati registrati attacchi anche in Italia, Polonia, Regno Unito, Germania ed altri paesi. Anche se per ora non vi sono prove in questo senso, Kiev accusa Mosca di essere dietro l'attacco e lo fa ufficialmente per voce del suo ministro degli esteri Pavlo Klimkin, che nel corso di un forum organizzato dall'ANSA a Roma si è detto convinto che con Donald Trump alla Casa Bianca l'ingresso della NATO per il suo paese non fa che avvicinarsi. Avvelenati dalla guerra nel Donbass separatista, i rapporti tra i due paesi orientali faticano a trovare uno spiraglio di dialogo nonostante le richieste internazionali. L'Unione Europea ha intanto prorogato le sanzioni economiche nei confronti di Mosca per altri 6 mesi, spiegando che la Russia non si è attenuta agli impegni di Minsk relativi al conflitto in Ucraina orientale. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Poi con un esperto cercheremo di capire le possibili conseguenze di questo attacco globale sull'Italia, anche se poco fa è arrivata la notizia che il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica ha detto che non costituisce questo attacco, chiamato Petya, una minaccia di carattere sistemico per l'Italia, quindi non ci dovrebbero essere conseguenze sul nostro paese. Poi comunque ne parleremo e adesso invece occupiamoci di vaccini. Una bambina di 9 anni è morta lo scorso 28 aprile all'ospedale Bambin Gesù di Roma a causa delle complicanze dovute al morbillo contro il quale non era stata vaccinata. La piccola era stata ricoverata dal 19 aprile ed era affetta da una malattia genetica. E in Sardegna un bambino di 10 anni in vacanza con la famiglia è ricoverato per tetano oristano, la malattia infettiva acuta è causata dal batterio Clostridium tetani, per la quale esiste un vaccino, cui però il piccolo non era stato sottoposto e sarebbe, pensate, il primo caso tra i bambini dopo 30 anni in Italia. La cronaca adesso con la strage delle donne per mano maschile che continua questa mattina a Montalto Ufugo, ad una trentina di chilometri da Cosenza, in Calabria. Un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Cosenza, Giovanni Petrasso, di 53 anni, ha ucciso con tre colpi sparati con la sua pistola d'ordinanza la moglie, Maria Grazia Russo, di 48. L'uomo ha poi rivolto l'arma contro di sé, suicidandosi. Nell'abitazione, al momento dell'omicidio-suicidio, si trovava la figlia diciottenne della coppia. Adesso parliamo di Mediaset. Il presidente Fedele Confalonieri ha annunciato che poche settimane fa abbiamo nuovamente citato in tribunale Vivendi per violazione contrattuale, concorrenza sleale, violazione della legge sul pluralismo televisivo. Mediaset potrà procedere a riacquisto di azioni proprie fino al 10% senza che Fininvest incorra nell'obbligo di OPA. E da Mediaset alla RAI, dove oggi sono stati presentati i palinsesti. Mario Orfeo, direttore generale della RAI, non ha usato giri di parole. La sfida, dice, è stata difendere i talenti da attacchi a dir poco strumentali. Inizio tutto sommato obbligato alla presentazione alla stampa dei palinsesti RAI per l'autunno. Il rinnovo del contratto di Fabio Fazio, 12 milioni per 4 stagioni, ha lasciato strascichi che sia il DG sia lo stesso Fazio vorrebbero mettersi alle spalle. Contratto vantaggioso per la RAI, altre emittenti, più di una, hanno offerto a Fazio condizioni migliori, dice Orfeo. Di eccessive e inusuali polemiche parla dal canto suo il conduttore. Avevo un impegno altrove, aggiunge, e se ho cercato di resistere perché conosco il valore della RAI. Parole che non sembrano però migliorare il clima. Per Maurizio Gasparri il contratto va stracciato. Al di là del caso Fazio, si è parlato della RAI che verrà, con fiction più ricche, coproduzioni e varietà contemporanee e informazione. Ma tenuto ovviamente banco anche quello che non sarà. Occhi puntati soprattutto su Giletti, che non condurrà più l'Arena. Scelta editoriale, ma gli è stato proposto il sabato sera, replica Orfeo. Altra assente, Flavio Insinna, finito al centro di polemica per uno sfogo fuori onda. Restano altri scogli da superare, dal piano news ai diritti sportivi ad altri rinnovi. Nota positiva, il possibile ritorno di Benigni su Rai 1. Ci incontreremo presto, dice un entusiasta Orfeo. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca, rimane in carcere Alberto Stasi, per lui non ci sarà un processo di appello TER, lo ha deciso la Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso dei suoi legali per riaprire il caso e sospendere la pena. Stasi sta scontando la condanna a 16 anni di reclusione per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto a Garlasco in Lombardia nell'agosto 2007. Poi, visto che c'è stata una petizione che è rimbalzata sui social un po' dappertutto, il cane Iceberg è salvo, tornerà in Italia. Un dogo argentino femmina di proprietà di uno chef avellinese sequestrato e condannato a morte in Danimarca perché questa specie è proibita in quel paese, ma la grazia per Iceberg e il ritorno in patria è stato annunciato dall'ambasciatore di Danimarca in Italia. E poi questa notizia sulla longevità: al momento è impossibile prevedere quale sia la durata massima della vita umana, il famoso limite fissato intorno ai 115 anni da diversi esperti potrebbe in realtà essere superato nel prossimo futuro. A indicarlo sono i dati relativi ai supercentenari raccolti dal 1968 a oggi tra Giappone, Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna. Li hanno analizzati su Nature i biologi dell'Università di Montreal in Canada e secondo i due ricercatori non esistono prove dell'esistenza di un limite massimo per la durata della vita umana. Quindi non poniamo limiti alla provvidenza, come si dice. Adesso ci fermiamo però con il limite posto adesso dagli aggiornamenti per chi viaggia. Voi però scrivete i vostri messaggi, i vostri commenti alle notizie di oggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure sul numero per messaggi e WhatsApp, che è 349 238 6666. A tra pochissimo. onexpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie in 60 minuti, le principali della giornata, sempre con voi Roberta Giordano, tutte le sere dalle 21 alle 22, in modo che a fine giornata per appunto siate aggiornati tutto ciò che è in primo piano. Quindi la vostra colonna sonora della sera, per dire un giorno non potete dire io non lo sapevo a proposito di una notizia importante. I vostri commenti, dicevo, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, oppure il numero per messaggi e WhatsApp, che è 349 238 6666. Raf da Napoli scrive: vergognatevi, iniziare con un tono da invasione barbarica, Salvini è con voi, complimenti. Ma solo perché ho detto che sono arrivati 12.000 sbarchi in 48 ore in Italia, qualcosa che, se vedete, uno dei primi titoli sui vari media online, e poi che c'è, diciamo, un accorato appello delle cariche, delle massime cariche istituzionali politiche italiane all'Unione Europea affinché faccia qualcosa e non giri la faccia dall'altra parte. C'è anche questa ipotesi da parte del governo italiano di bloccare le navi che non battano bandiera italiana con carichi di profughi. Ora, queste sono le notizie, poi che Raf da Napoli pensa che sia un'opinione personale, vabbè, sono cose sue. E poi invece Franco dice: salve, con il virus adesso vengo lì e vi blocco il computer, ma state tranquilli, c'è un nuovo antivirus a modico prezzo. Qualcuno anche ieri diceva: vabbè, ma ci sono questi virus a modico prezzo. Ma secondo voi, se fosse solo una questione di questi modici prezzi di antivirus, colpirebbero tutti i paesi, i maggiori paesi nel mondo, le società super mega progredite? Insomma, evidentemente non è una cosa così semplice, ma ne parleremo dopo, perché adesso invece tra pochissimo ci dobbiamo occupare di politica italiana. Vi ricordo intanto i fatti principali della giornata, che sono per l'appunto l'emergenza immigrazione, visto che nelle ultime ore sono sbarcate 12.000 persone sulle coste italiane, tra donne, uomini e bambini. Mattarella parla di situazione insostenibile e il governo italiano valuta un possibile blocco delle navi non italiane. Per quanto riguarda l'economia, la Confindustria rialza le stime del prodotto interno lordo. Nel 2017 c'è un più 1,3%. Sulla legge elettorale ne parleremo tra pochissimo, la riforma della legge arriverà alla Camera a settembre. Intanto continua la bagarra all'interno del centro-sinistra e del centro-destra. Vaccini, il tetano torna dopo 30 anni, l'ha contratto un bambino che si è ferito in Sardegna giocando, e a Roma purtroppo è morta una bambina di 9 anni affetta da una grave patologia che poi si è ammalata di morbillo. Un ennesimo femminicidio, questa volta vicino Cosenza, in Calabria. Un agente penitenziario ha ucciso la moglie con la pistola, poi si è suicidato. L'attacco informatico globale di ieri. Il ministro degli esteri ucraino accusa la Russia di essere dietro questo attacco e intanto, dice, cercheranno di manipolare il voto anche in Italia. I furbetti del cartellino, 50 indagati al comune di Piacenza che timbravano e poi andavano in palestra a fare la spesa. E questa notizia che riguarda la longevità: impossibile prevedere la durata massima della vita umana, il limite può essere oltre i 115 anni. E quanto invece sarà longeva questa polemica all'interno del centrodestra e del centrosinistra? Insomma, diciamo, questo è il sale della politica italiana. Comunque nel dopo amministrative si stanno facendo sentire soprattutto le tensioni all'interno del schieramento dei vincitori, quindi del centrodestra, e anche di coloro che, insomma, non hanno avuto per nulla un buon risultato, anzi sono stati sconfitti all'interno del centrosinistra, in particolare tensioni e rivolte all'interno del Partito Democratico. Per quanto riguarda il centrodestra, Salvini ancora ieri ha insistito sull'affermare che Berlusconi strizza l'occhio a Renzi. Berlusconi oggi però ha smentito e ha detto: no, è il centrodestra che quando va unito vince. Allora vogliamo sentire questo passaggio proprio di Berlusconi? Quando si parla di maggioritario non si può dire non facciamo una lista unica. Se si va al maggioritario si deve fare la lista unica. Invece c'è chi dice non vogliamo la lista unica e poi dice vogliamo il maggioritario, a meno che non ci sia un premio alla coalizione, ma questo è escluso da parte del PD che ci possa essere. E allora Matteo Salvini, leader della Lega, lancia questa proposta. Gli italiani hanno votato chiaramente e la Lega ha le idee chiare. Legge elettorale il prima possibile, lavorando in Parlamento anche luglio e agosto se serve, con una legge maggioritaria che dice chi vince e chi perde. E poi sui programmi e sulle cose da fare, riunione di tutto il centrodestra. Quindi saluto Emilia Patta del Sole 24 Ore. Cara Emilia, ciao. Buonasera. Allora, poi parleremo del centrosinistra. All'interno del centrodestra c'è ancora questo problema che qui di scegliere chi è il capo. Ieri Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, diceva è un po' infantile questo bisticciare su chi farà il capo e chi no. Però mi sembra che la questione sia anche sulla legge elettorale, sulla prossima legge elettorale, quella che verrà fuori da questa riforma, perché Berlusconi sarebbe per il proporzionale, mentre Salvini a quanto pare no. Sì, in realtà le due questioni, quelle della leadership e quella della vanno legge insieme. Elettorale, sono legate, perché Berlusconi resiste molto a fare un'alleanza vecchio stile, no? Con la Lega, perché la Lega ha cambiato un po' pelle, insomma, con Salvini è diventata più populista, più anti-euro, ed è chiaro che un'alleanza con la Lega, con più o meno dei risultati elettorali uguali tra Lega e Forza Italia sarebbe attrazione leghista, mentre Berlusconi vuole rimanere ancorato al Partito Popolare Europeo, quindi in realtà non è solo una questione di leadership o di quanti deputati portare in Parlamento, che pure è importante, la questione è proprio strategica di lungo respiro, cioè Berlusconi deve decidere se la sua Forza Italia poi venga assorbita in un partito populista oppure deve rimanere il faro, come lui ha sempre sognato, dei moderati italiani, quindi la questione è proprio politica. E Berlusconi vuole una legge elettorale proporzionale alla tedesca proprio perché in questo modo non deve essere costretto ad allearsi con Salvini, quindi magari guarda per il dopo elezioni più al PD di Renzi per fare una grande coalizione alla tedesca, ecco, questo è un po' lo schema, ma è una questione squisitamente politica di prospettiva del paese e in relazione all'Europa e all'euro, questo è il punto, non è banale, ecco. Invece mi pare, Emilia, che la situazione sia ben più grave nel centrosinistra, no? Dove sembra, nel PD, Partito Democratico sostanzialmente, dove sembra che sia scoppiata una rivolta pro contro Renzi, Renzi che praticamente è stato accerchiato, e anche pro contro Prodi, nel senso che Renzi aveva fatto una battuta così con reminiscenze da Boy Scout, dicendo insomma che sarebbe stato meglio che Prodi avesse messo la sua tenda un po' più in là. E Prodi ieri ha replicato questa battuta dicendo sì no, la mia tenda, se mi dice di allontanarla senza nessuna fatica, tanto è leggera, la metto nello zaino. E c'è qualcuno invece, molti all'interno del PD non di secondo piano, che hanno chiesto a Prodi di ritirarla il prima possibile fuori dallo zaino questa tenda. Ma al di là di questo, allora diciamo che oggi, per aggiornarci alle dichiarazioni di oggi, Lotti, fedelissimo di Renzi, nonché ministro dello sport, ha detto insomma basta, Renzi ha vinto le primarie, abbiamo votato poco tempo fa, 2 milioni di persone hanno votato, quindi inutile rimettere sempre tutto in discussione. Mentre Franceschini a Repubblica TV ha detto, come anche ieri insomma ha detto, qui c'è qualcosa che non va, che non funziona, non si può dare sempre colpa agli altri, ha detto il nostro si chiama Partito Democratico, quindi è normale che democraticamente si discuta all'interno, anche se la leadership di Renzi non è in discussione. Farei sentire però Lotti adesso. Noi non possiamo sempre rimettere in discussione sempre tutto, e abbiamo votato pochi mesi fa, pochi giorni fa, attento perché sennò la schiacciano, pochi giorni fa abbiamo fatto le nostre primarie, abbiamo 2 milioni di italiani e di persone che hanno espresso il loro voto a Matteo Renzi, fine della discussione. Il problema è che se parti subito con l'attacco in questo modo probabilmente è un'offesa a queste persone che hanno votato. Questo Lotti, non so se fosse emblematica la sirena sotto dell'ambulanza sotto in sottofondo, Emilia Patta, e sentiamo però anche Cuperlo, che è della minoranza, che è rimasta ancora interna al PD, minoranza di sinistra. La cosa peggiore è scaricare la colpa, la responsabilità soltanto su qualcuno, che sia il segretario del principale partito, che sia la minoranza interna di quel partito. Abbiamo perso, cerchiamo di capire perché è accaduto e come recuperare quel consenso che oggi non c'è. Questo fa un gruppo dirigente, questo fa un partito serio. Insomma, che succede? Renzi è messo in discussione, vabbè, ci sono i suoi fedelissimi che lo difendono, però gli altri continuano a puntare il dito praticamente per dire che è lui che in qualche modo rischia di far perdere in futuro, anche nel presente, il PD, nonostante lo avessero invitato Prodi, Veltroni e altri ad allargarsi anche ai fuoriusciti, a una coalizione di centrosinistra, magari con Pisapia. Sì, insomma, in discussione sembra essere in effetti non tanto la leadership di Renzi dentro il PD, insomma, perché nessuno dice che bisogna rifare le primarie del PD, ma il fatto che Renzi, in quanto leader del PD, possa essere il futuro candidato premier del centrosinistra. Ecco, mi sembra che un po' in discussione sia questo. Però questa richiesta di fare le alleanze, no, con la sinistra, che viene da Prodi da molte settimane, anche ultimamente Veltroni, anche Franceschini ha rilanciato il tema dicendo che occorre una legge elettorale con il premio alla coalizione. Questa richiesta è un pochino anche però confligge con il fatto che nelle città dove si è perso, il centrosinistra ha perso i ballottaggi, c'era appunto il centro-sinistra, non c'era il PD da solo, quindi le alleanze c'erano, eppure quindi, hanno perso. Quindi la coalizione c'è e può su questo giustificare Renzi e dire vedete che con la coalizione lui, si perde? Dal suo punto di vista dice vedete la coalizione non serve, però anche qui come nel caso del centrodestra, in realtà poi un conto è governare una città, un conto è fare un programma per il paese. Perché al di là della questione di Renzi, che alcuni ne mettono in discussione la capacità di tornare a Palazzo Chigi, eccetera, ci sono delle differenze programmatiche molto importanti tra il PD e ad esempio i fuoriusciti bersaniani. Loro vorrebbero abolire il Jobs Act, vorrebbero reintrodurre l'ICI sulla prima casa, vorrebbero rimettere l'articolo 18. Quindi anche sul programma e sulle ricette economiche per il paese le distanze si sono molto approfondite. Quindi al di là poi dei personalismi, per me è difficile mettere insieme un programma di governo riformista con questa sinistra sparsa. Ecco, io la vedo così, io se fossi i leader dei partiti starei più su il programma, facciamo un programma comune e mettiamoci insieme, no? Su questo, perché mi sembra che al di là di chi sarà il leader è quello il punto più importante. Già, e a questo proposito di leader, di candidato premier, sentiamo anche a proposito del Movimento 5 Stelle cosa ha detto Di Maio. Il movimento è compatto e non si deve ricompattare su un nome. Presto individueremo i criteri per eleggere il nostro candidato premier e nei mesi successivi, prima delle elezioni politiche, gli italiani conosceranno tutta la nostra squadra di governo. Benissimo, quindi attendiamo e leggo con piacere questo messaggio, deve essere di uno studente che dice grazie Roby che mi fai compagnia mentre preparo gli esami. Pensate, è un giovanissimo, stava preparando gli esami di maturità, che ascolta Effetto Notte, quindi evidentemente lo ispira. Sono io che ringrazio te di avere la pazienza di sentire questa trasmissione alla tua verde età. Cara Emilia Patta, avrà capito qualcosa anche più, spero, della politica insieme a te. Ci sentiamo presto, Emilia. Grazie. Grazie, buona serata. Ciao, buona serata a te. E, continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. C'è per esempio Fabio che dice davvero non capisco la strategia del PD. Invece tra poco cercheremo di capire effettivamente quanto sia praticabile questa ipotesi del governo italiano per gestire, in qualche modo arginare il flusso inarrestabile di migranti, di bloccare le navi che non hanno bandiera italiana. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete da tempo, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Allora riprendiamo con gli approfondimenti. Prima abbiamo parlato ampiamente di politica italiana con la riforma della legge elettorale che sarà alla Camera a partire da settembre, con vari mugugni di chi voleva che si facesse in tempi più ristretti, e poi abbiamo parlato anche delle tensioni all'interno del centrodestra e del centrosinistra e dell'accerchiamento di Renzi. E invece adesso ci occupiamo del, come possiamo dire, tra virgolette naturalmente, accerchiamento delle nostre coste, nel senso che gli stessi che sono sempre stati aperti naturalmente all'accoglienza, anche Mattarella dice anche un paese aperto e accogliente come il nostro, però a un certo punto sente che diventa insostenibile la situazione con migliaia di sbarchi al giorno. Adesso ne parliamo tra pochi istanti. Intanto sto cercando di recuperare i vostri WhatsApp al 349-238-6666, intanto qui scompare qualcosa, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti. Vi ricordo, se avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Appunto sui migranti, l'Italia che pensa come ipotesi al blocco dei porti alle navi straniere. E nelle ultime 48 ore sono arrivati 12.000 persone. La Confindustria che rialza le stime del PIL nel 2017 più 1,3%, e poi la legge elettorale di cui abbiamo, e della politica di cui abbiamo parlato, riforma in aula alla Camera a settembre, bagarre, polemiche nel centrodestra e nel centrosinistra. A proposito dell'attacco informatico globale di ieri, il ministro ucraino dice all'ANSA: la Russia è sicuramente dietro questo attacco, il nucleo per la sicurezza cibernetica però, dice l'Italia, potrebbe non rischiare nulla in realtà. Allarme Brexit per il bilancio europeo, se appunto la Gran Bretagna se ne va ci potrebbe essere un buco da 10 miliardi nel bilancio dell'Unione Europea. E poi a proposito di vaccini, è morta una bambina di 9 anni per morbillo, era in ospedale per una patologia genetica, e un altro bambino in Sardegna era senza copertura antitetanica, ricoverato per tetano a Oristano. E la Cassazione che conferma la condanna a Stasi per il delitto di Garlasco, resta la condanna a 16 anni. Allora, dicevamo dell'emergenza immigrazione, a confermare che effettivamente si tratta di un'emergenza, come vi dicevo, in realtà anche stando solo alle ultime ore bastano questi numeri, cioè nelle ultime 48 ore sono arrivate in Italia 12.000 persone, sono state salvate 12.000 persone da 22 navi tra donne, uomini e bambini. A certificarlo sono fonti diplomatiche di Bruxelles. Il rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea, l'ambasciatore Massari, ha incontrato oggi a Bruxelles il commissario europeo degli interni e per l'immigrazione Avramopoulos per discutere dell'emergenza migranti e Avramopoulos ha detto effettivamente l'Italia ha ragione quando afferma che la situazione riguardo i flussi sulla rotta del Mediterraneo centrale è insostenibile. Gli stessi leader, dice Avramopoulos, dei 28 lo hanno detto chiaramente venerdì scorso al Consiglio europeo. E poi sempre Avramopoulos ha detto la Commissione ha sempre sostenuto l'Italia nella sua gestione esemplare della crisi dei rifugiati, sostenuto diciamo più che altro simbolicamente, diciamo con il pensiero, e questo lo aggiungo io, e continuerà a farlo. Siamo pronti a fare di più, in particolare ad aumentare sostanzialmente il nostro supporto finanziario all'Italia se sarà necessario. Gentiloni ha detto ai paesi dell'Unione Europea smettano di girare la faccia dall'altra parte. Vogliamo sentirlo, Gentiloni? È un paese intero che si sta mobilitando per gestire questa emergenza migratoria. Non voglio fare l'elenco di tutti quelli che ci stanno lavorando, ma è l'Italia intera che si sta impegnando in questa direzione per governare i flussi, per contrastare i trafficanti, non per soffiare sul fuoco, semmai per chiedere all'Europa, ad alcuni paesi europei in modo particolare, che la smettono di girare la faccia dall'altra parte, perché questo non è più sostenibile. E poi anche Mattarella, che di solito insomma, molto diplomatico, è intervenuto dicendo se il fenomeno dei flussi continuasse con questi numeri la situazione diventerebbe ingestibile anche per un paese grande, aperto e accogliente come il nostro. Dice un fenomeno epocale che non si può cancellare alzando muri, ma che occorre governarlo con serietà. E come governarlo quindi questo fenomeno? Il governo italiano sta valutando, come vi dicevo prima, la possibilità di negare l'approdo nei porti italiani alle navi che hanno appunto che effettuano salvataggi di migranti davanti alla Libia ma che non battono bandiera italiana. Ne vorrei parlare per capire se effettivamente è una soluzione praticabile con Francesco Munari, che è docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Genova. Buonasera professor Munari. Buonasera. Che ne pensa quindi di questa ipotesi? Le sembra fattibile, lecita, legale? Sì, dal punto di vista delle norme di diritto internazionale, certamente gli stati non sono obbligati ad accettare sul loro territorio qualunque tipo di nave straniera che scarichi persone. C'è un principio abbastanza solido, è stato anche riaffermato all'ultimo G7, del diritto degli stati di controllare le proprie frontiere. Quindi, intendiamoci, c'è da distinguere se la situazione di emergenza riguarda persone in pericolo di vita in mare e nelle acque territoriali, oppure persone che vengono trasportate da navi che li hanno raccolti. Allora, in questo secondo caso, ad esempio le navi delle ONG o di altri stati, navi militari e quant'altro, l'Italia probabilmente ha tutti i diritti di non consentire lo sbarco delle persone. Si può immaginare che per singoli casi le persone possano essere, che sono a bordo di una nave, siano in pericolo di vita, e allora in questo caso magari se ne possono prelevare quelle che effettivamente sono in pericolo di vita, ma nel momento in cui volontariamente una nave raccoglie migranti, il comandante della nave è la prima persona che si assume la responsabilità poi di garantire il cosiddetto safe place dal punto di vista delle norme di diritto internazionale. Quindi, professor Munari, è una cosa, appunto, lei ha spiegato, che si può fare solo nel caso ci fossero persone in pericolo di vita, però a quel punto è doveroso l'intervento. Leggevo però che la portavoce della Commissione europea, Natasha Berton, ha detto: al di là delle operazioni dell'Unione europea che non sono in discussione, la questione degli sbarchi è regolata dalla legge internazionale e la Commissione europea, dice la portavoce, tuttavia ritiene opportuno che qualsiasi cambiamento nelle politiche sia prima discusso e comunicato nel modo giusto, così da dare all'ONG l'opportunità di prepararsi. Quindi ci deve essere, comunque non può essere una decisione unilaterale dell'Italia, ci deve essere una discussione. No, sì che può esserlo. Il diritto internazionale, sotto questo profilo, ripeto, o c'è un obbligo e non c'è, oppure l'Italia unilateralmente può decidere di non ricevere più le navi straniere con i migranti. Ripeto, la differenza sostanziale è: la persona in pericolo di vita in mare deve essere salvata. Questo obbligo grava sul comandante della nave, anche una nave mercantile di qualunque tipo, che viene chiamato a un soccorso in mare, e sugli stati come l'Italia che aderiscono alla convenzione SAR vi è un obbligo di organizzare un meccanismo che consenta di pattugliare le coste e gli spazi di mare che si sono divisi gli stati, ad esempio il Mediterraneo, nell'ambito dell'area SAR, e questo l'Italia lo sta facendo. Altra cosa è invece immaginare che qualunque nave che abbia raccolto dei migranti o anche dei richiedenti asilo, potenzialmente richiedenti asilo, teniamo conto che ci sono le prassi e anche le raccomandazioni dell'Organizzazione Marittima Internazionale che fanno obbligo al comandante di identificare, o fanno obbligo, raccomandano ai comandanti delle navi di identificare a uno le persone, di chiedere se hanno, quali sono le loro caratteristiche, la loro provenienza, i loro bisogni, in modo tale che sia già a bordo della nave che si faccia un primo screening. Questo temo che non venga fatto più da nessuno, e quindi l'idea invece di spontaneamente caricarli a bordo delle navi, salvare loro la vita, ma poi automaticamente pensare di sbarcarli in un porto italiano, non è esattamente quello che il diritto internazionale dice che bisogna fare. Leggo giusto qualche messaggio. Rosanna dice: se è possibile chiudere i porti alle navi ONG straniere, cosa si aspetta? Certo. Avrebbero dovuto farlo prima invece di permettere all'Europa di esasperarci. Mi sento cattivissima, dice Rosanna. Poi Giuseppe dice: nelle numerose navi delle ONG, due battono bandiera italiana, il Vos Prudence e il Vos Estia. Le altre navi faranno trasbordo di migranti su di esse per aggirare il blocco dei porti ipotizzato, dice Roberta. È una minaccia farlocca, dice. Potrebbe esserci questo escamotage nel caso, per chiudere. Beh, sì, cioè, bisogna anche tenere presente che poi ci sono le convenzioni internazionali che vietano il contrabbando delle persone, cioè il protocollo alla convenzione di Palermo del 2000 individua fattispecie criminose. Ora, qualche settimana fa c'è stato anche molto rumors sui media a proposito delle indagini che sono state e che sono in corso da parte di alcune procure. Però, come dire, non bisogna tirare troppo la corda, nel senso, le organizzazioni militari fanno il loro dovere giustamente, però i comandanti di navi si assumono delle responsabilità che gli stati della bandiera devono garantire nei confronti degli stati costieri come l'Italia. Quindi se poi c'è come dire, il trasbordo da navi straniere a navi con bandiera italiana e sono tutti d'accordo, beh, forse secondo me c'è qualcosa che non quadra e che il sistema non stia più tenendo dal punto di vista europeo. Lo dimostra la stessa Corte di Giustizia la settimana scorsa in una pronuncia dell'avvocato generale Charleston nelle conclusioni al caso Giaffari. Ha detto chiaramente, ad esempio, che il principio cardine del sistema di Dublino, cioè lo Stato che per primo viene toccato da un migrante, è quello che si deve far carico dello stesso e dell'eventuale richiesta di asilo, non si applica in queste fattispecie di emergenze globali. Quindi, come dire, stiamo ridisegnando tutto lo scenario. Certo è che l'Italia fa bene a questo punto, secondo me, a non mostrarsi più così accondiscendente nei confronti di tanti paesi che solidarietà nei nostri confronti non ne hanno assolutamente avuto. È chiaro. Grazie professor Francesco Munari, ricordo, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Genova. Grazie e buona serata. E adesso coinvolgo Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI per l'area Europa. Buonasera Matteo. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, e da un punto di vista politico, insomma, si sta facendo sentire l'Italia, forse è più un alzare la posta per almeno arrivare a un compromesso, visto che effettivamente, come abbiamo sentito Gentiloni che dice, l'Unione Europea continua a dire sì sì siamo solidali, ma gira la faccia dall'altra parte. Anche Mattarella è preoccupato, e Minniti è dovuto tornare ieri d'urgenza mentre stava andando a Washington, tornare indietro. Evidentemente la situazione, insomma, è preoccupante. Sì, assolutamente, c'è un po' una mancanza di solidarietà interna all'Italia che complica tutto, perché su 8.000 comuni solo 2.000 poi accettano di ricollocare migranti, e forse adesso credo ci siano diversi timori che i nuovi sindaci eletti, insomma, con l'avanzare del centrodestra poi siano sempre meno disponibili, però è ovvio che in Europa si fa poco. Ci tengo a distinguere, nel senso che secondo me ha ragione Avramopoulos quando dice stiamo facendo tanto. La Commissione Europea ha fatto tanto, dà 700 milioni di euro all'anno all'Italia, è vero che è solo il 20% di quanto spenderemo quest'anno, 4,8 miliardi, però è quello che può fare sul bilancio attuale. E poi sui ricollocamenti loro hanno spinto tanto, il problema sono i paesi membri, cioè i paesi che hanno deciso che sui ricollocamenti di richiedenti asilo e poi su tutto ciò che riguarda la solidarietà non si fa nulla, e quindi sì, fa bene l'Italia a fare la voce grossa, anche minacciando qualcosa che appunto è nei limiti, come diceva benissimo Munari, del diritto internazionale, però chiaramente tende un po' a tirare la corda per cercare di ottenere il massimo, perché se finora non siamo proprio ascoltati. Avramopoulos ha detto, beh, comunque di questi argomenti discuteremo nella prossima riunione, prossimo vertice europeo. C'è un ascoltatore che dice, ecco, diranno che faranno i prossimi vertici europei, riunioni, cose varie, siamo sempre alle solite. Vediamo se con questa, tra virgolette, minaccia italiana qualcosa può minimamente cambiare. Vediamo, sì, ogni settimana, quasi ogni settimana c'è una riunione dei ministri affari interni, per adesso cambia poco, perché è chiaro che quando sono competenze di tutti gli stati membri, a quel punto si va a votare in maggioranza, si rischia di mettere in minoranza dei paesi, poi sono comunque in parte importanti, cioè paesi dell'est, oppure purtroppo ci ritroviamo qui a cercare un po' di ricattare gli altri stati a fare qualcosa. Così, in questo modo un po', diciamo, più politico che solidale. Già. Grazie Matteo Villa dell'ISPI. Grazie a voi. Buona serata Matteo Villa. E adesso invece cosa abbiamo? La viabilità immediatamente, vedevo i vostri messaggi, questo ascoltatore che dice l'Europa vuole solo rispetto delle regole fiscali come stabilità e bilancio, poi quando si tratta di investire su soldi, aiuto logistico, allora il problema è solo nostro. Avete sentito, diceva Matteo Villa, degli investimenti ci sono, però poi resta anche la questione della redistribuzione. L'Europa o cambia o si cambia, dice questo ascoltatore, o implode. Ci sentiamo tra pochissimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, Roberta Giordano sempre con voi. A proposito dell'argomento abbiamo trattato sinora di questa ipotesi dell'Italia rispetto alla gestione dei difficili flussi migratori. Carlo dice, se questa notizia fosse vera io dico che sarebbe ora, abbiamo aspettato anche troppo. Insomma, vediamo che cosa succederà nelle prossime settimane. Intanto adesso cambiamo proprio tema, ritorna il tema dei vaccini, mentre vi ricordo molto velocemente che potete continuare a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, anche per aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. I temi principali, ne abbiamo appena parlato, dell'emergenza immigrazione con le ultime 48 ore, 12.000 sbarchi sulle nostre coste e l'Italia che ipotizza il blocco delle navi con profughi che non battano bandiera italiana, l'economia con Confindustria che rialza le stime del PIL a più 1,3% nel 2017, la bagarre, la polemica sempre all'interno del centrodestra e del centrosinistra del dopo amministrative, con la legge elettorale che sarà alla Camera, la riforma della legge elettorale a settembre. E adesso parliamo appunto di vaccini. Vaccini, perché oggi due casi riportano in primo piano questo tema. Un bimbo che in Sardegna, facendosi male mentre era in vacanza con la famiglia, ha contratto il tetano, contro il quale non era vaccinato, e pare che sia da 30 anni che non ci fosse il tetano in Italia o comunque tra i bambini. E poi una bambina di 9 anni che purtroppo è morta ad aprile, se ne è saputo solo adesso, per le conseguenze del morbillo all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Aveva una malattia genetica, quindi era già fragile. E, evidentemente ne parliamo con Giovanni Rezza, virologo, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Buonasera, professor Rezza. Buonasera a voi. Allora, in questo caso si può dire che i bambini con situazioni complesse sono anche quelli che vengono vaccinati meno, ed è proprio per questo che quindi chi è intorno a loro deve essere vaccinato? Sì, certamente, perché sono quelli che una volta che dopo ammalano purtroppo hanno le complicanze maggiori e in alcuni casi l'esito può essere anche letale. In alcuni casi questi bambini non vengono vaccinati perché magari i genitori hanno paura a vaccinare un bambino che non sta in condizioni ideali, invece potrebbero vaccinarlo. In altri casi proprio non possono vaccinarlo con dei vaccini, per esempio, che contengono dei virus vivi attenuati come quello del morbillo, ma questi casi sono casi eccezionali, sono i casi in cui un bambino è immunodepresso, fortemente immunodepresso, perché magari ha già una malattia del sangue, una malattia di base che deprime, oppure a causa della terapia che fa deprime il sistema immunitario, e allora non può vaccinarsi. È chiaro che quelli che stanno intorno in questo caso dovrebbero essere tutti vaccinati per proteggerlo. Professor Rezza, lei sa che ancora insomma ci sono molti che sono titubanti, molti genitori preoccupati. Secondo lei è possibile fare un test sui bambini prima di vaccinarli per vedere se hanno qualche possibile reazione avversa, come si dice? No, guardi, i test cosiddetti prevaccinali proprio non esistono, sono una fake news, una invenzione di qualcuno che evidentemente non aveva niente di meglio a cui pensare. Il punto qual è? Che questi eventi avversi dei vaccini in genere sono degli eventi avversi di modesta entità, cioè quelli che noi chiamiamo effetti collaterali, perché l'evento avverso è un evento che avviene dopo la vaccinazione, è correlato temporalmente, ma potrebbe benissimo, anzi nella maggior parte dei casi, la grande maggioranza dei casi, non è assolutamente dovuto, causato dal vaccino. Quando parliamo di eventi avversi correlati al vaccino, sono quelli che noi chiamiamo banalmente effetti collaterali, in genere riguardano il punto di inoculazione del vaccino, un po' di dolore, gonfiore, arrossamento, sono questi. A volte può comparire una febbre di varie entità, che in genere con la tachipirina passa. Eventi avversi veramente gravi, a parte il fatto che sono veramente rari, se parliamo nell'ordine di uno a milioni, ma che siano veramente associati ai vaccini, dopo diciamo, l'evidenza scientifica manca. Quindi questa paura, capisco che il vaccino si dà a una persona somministra, a una persona che è sana, e questa è una cosa che fa un po' paura, no? Dice, perché io devo somministrare un farmaco, tra virgolette, sebbene sia controllatissimo, sebbene sia uno fra i più sicuri tra i farmaci, a un bambino che in questo momento è sano. Se la percezione del rischio è bassa, allora il genitore che fa questo tipo di ragionamento tende magari ad avere paura a vaccinarlo. Allora, perché è bassa la percezione del rischio? Perché i vaccini sono vittima del loro stesso successo, fanno scomparire molte malattie infettive. E quindi uno non ci pensa più. Che non scompaiono solo temporaneamente, solo in un paese, e si pensa a quel punto di stare al sicuro. Tanto si vaccinano gli altri, magari uno fa questo ragionamento, no? E quindi si creano immunità di gregge e fanno sì che il mio bambino sia protetto. Chiaro. Se tutti facessero così, capisce bene. Professor Rezza, la ringrazio. La ringrazio e le auguro buona serata. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Ora invece parliamo dei massicci globali attacchi hacker di ieri, che hanno colpito in particolare l'Ucraina, anche la famigerata centrale nucleare di Chernobyl. Ha messo sotto scacco molte società in tutto il mondo. Il governo ucraino accusa la Russia e dice sicuramente dietro questo attacco c'è la Russia, e cercherà di manipolare anche le elezioni in Italia, perché per la Russia l'Italia è un paese importante. Luca Bechelli, buonasera, membro del direttivo del Comitato Tecnico Scientifico del CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Bechelli, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Che rischio di impatto c'è effettivamente sull'Italia, anche se poco fa ho visto che il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica ha detto che in realtà non dovrebbero esserci conseguenze sul nostro paese? Sì, ci aspettiamo conseguenze tutto sommato minime, perché come è stato detto durante il giornale l'attacco si basa su delle vulnerabilità e quindi delle tecniche di attacco che sono state in qualche modo già utilizzate in passato, l'abbiamo visto nel recente attacco altrettanto famoso denominato WannaCry, e che quindi ha in qualche modo diffuso, se vogliamo, una certa attenzione su questo tema e ha spinto moltissimi ad installare gli aggiornamenti che servono per evitare l'infezione. Quindi noi siamo pronti, siamo tranquilli, siamo salvaguardati. Fino a un certo punto, nel senso che, come comunque stiamo leggendo in queste ore, sono in ogni caso numerose le vittime, perché sostanzialmente siamo disabituati a portare attenzione a questi temi, siamo disabituati a non installare con una certa rapidità gli aggiornamenti. WannaCry è di poche settimane fa, ma gli aggiornamenti sono disponibili sostanzialmente da marzo, e il successo comunque che vediamo di questo attacco su scala mondiale, benché non sia sicuramente uno degli attacchi più grandi che abbiamo visto, comunque la dimostrazione che ancora c'è molto da fare, sia in termini di consapevolezza che di azioni da parte sia delle aziende che di noi cittadini naviganti della rete. Grazie Luca Pechelli. Grazie della chiarezza. E adesso ci dobbiamo proprio fermare, il tempo è scaduto, ratta come la folgore, quindi vi aggiornerò intorno alle 22.